3, 2, 1, via! Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata dell'Incredulo. Dalla vostra apprendista stregona Elisa, che come ogni puntata vi porterà in un mondo abbastanza magico, ma sempre basato su leggi scientifiche concrete, che adottando queste leggi scientifiche e concrete proverà a convincere il nostro Giorgio, il popolano, ad aprirsi verso nuovi mondi e nuovi esperimenti. Buongiorno Giorgio. Elisa, ma ancora con questa storia? A me non mi convincete, a me mi convince solo quei fogli bianchi e rossi scritti dai dottori in camici bianchi che hanno studiato nelle università dove danno i diplomi e dove c'è scritto dottore in medicina, dottore in biologia. Tutto il resto sono baggianate, parliamoci chiaro. Certo è che, per esempio, un grande scrittore come Tiziano Terzani, in uno dei suoi libri più belli, probabilmente, che è Un altro giro di giostra, parla della sua malattia, una malattia molto concreta e trattata dai medici più scientifici che la medicina conosca, e che a un certo punto fa un viaggio nel mondo delle medicine alternative e ne scopre e ne rivela tantissime, e quello che lui dice è: queste medicine, queste soluzioni funzionano se si sa perché funzionano. Quello che in altre parole qualcuno dice, se ci si crede, qui non è da crederci da tontoloni, ma sapere perché funzionano, come funzionano e quindi poi funzionano. Ora, anche Terzani probabilmente era uno sciroccato, però siccome anche lui, che è stato un grandissimo intellettuale del nostro tempo, in qualche modo si è occupato di questi temi, tanto vale occuparcene noi e tanto vale parlare con Elisa. Con Elisa che di queste cose, insomma, si intende e studia. Ultimamente si è messa pure a scrivere una bella tesi che ci auguriamo poi compartirà con noi altri increduli. Ma oggi naturalmente parleremo di biologia, parleremo di molecole, parleremo di microscopi, parleremo di laboratori, perché oggi Elisa di che ci parlerai? Parleremo del Reiki. Il Reiki, ma che è? Un gioco cinese di quelli con tutte le tesserine che si entra in questi posti cinesi, tipo a Firenze Ovest ce n'è qualcuno, si entra dentro una fumea, dai, ma che roba è? Il Reiki è una disciplina giapponese che è composta da due parole, Rei che significa spirituale e Ki che invece significa energia, forza vitale. Ma prima di addentrarci in questa cosa un po' mistica, ti voglio dare delle basi molto scientifiche. D'accordo. Allora, hai mai sentito parlare della fisica quantistica e di Max Planck? Beh, sì, lui è uno dei nostri scienziati preferiti. Quindi sai benissimo su che cosa si basa le sue teorie, su ciò che aveva anche scoperto Albert Einstein, che noi siamo energia, materia. La materia è composta di energia. Il Reiki, se lo vogliamo vedere da questa base scientifica, più o meno non fa altro che mettere in comunicazione l'energia del mondo, il campo elettromagnetico del mondo con una persona, che è quindi il cliente barra paziente che si farà trattare da noi. Il Reiki nasce in Giappone in un'epoca molto molto particolare, perché nasce fra la fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, periodo in cui dottor Bach scoprì i fiori di Bach. Ma pensate la Sì, risonanza morfica! esatto. Venne scoperto da un monaco laico buddista giapponese, Mihai Usui, al quale un suo discepolo gli fece la domanda: come faceva Gesù Cristo a curare? Lui, non sapendo questa cosa, decise di andare in ritiro presso un monastero buddista in cui doveva stare per 21 giorni in meditazione. Si era messo seduto, diciamo, in un prato, con 21 sassolini davanti e ogni giorno ne spostava uno. Arrivato alla fine di questo suo percorso, non gli sembrò di aver concluso nulla, non sapeva perché Gesù Cristo riusciva a curare i malati. Mentre scendeva da questa montagna dove era un ritiro, viene folgorato da un fulmine e da lì le sue mani hanno cominciato a curare. Ora so che è una leggenda un po' allegra, un po' divertente, però è ciò che sta dietro a tutto quello che riguarda il Reiki, il 21. 21, multiplo di 7, numero magico, 7 peccati capitali, i 7 vizi, le 7 virtù, eccetera, eccetera. Dietro al 7 ci si potrebbero scrivere libri, libri, libri. Lui scese giù e cominciò a curare, trasferendo l'energia dell'universo, quindi essendo un canale, con le sue mani. Aprì una clinica del Reiki, in cui poi piano piano insegnò ad altre persone come si tratta o come si tratta un paziente. Da noi è arrivato tramite una giapponese che si chiama Takata, che però si è trasferita alle Hawaii, perché il Giappone e le Hawaii sono molto molto vicine e molto contaminate. Da lì si è diffuso negli Stati Uniti e poi è arrivato a noi oggi come, diciamo, disciplina orientale. In effetti i giapponesi le Hawaii le bombardarono a tappeto, ma Elisa, l'elettromagnetismo, l'energia, questi temi di cui parli sono temi che a me fanno venire in mente la meccanica, ossia serve delle macchine per produrre energia, per produrre il campo elettromagnetico, per produrre elettricità, quelle di Tesla, la corrente alternata, e com'è che questa energia che viene prodotta dai trasformatori meccanici in qualche modo è riproducibile anche da un essere umano? Per prima cosa noi produciamo energia. Devi sapere che energia è campo elettromagnetico, onde. Il cuore nostro produce un campo elettromagnetico che è circa grande, ha un diametro di 2 metri, 2 metri e mezzo, e mette in connessione non solo il nostro corpo, i nostri organi col cuore, ma anche col mondo esterno. Quindi noi stessi siamo energia. Come ti ho spiegato, l'acqua è energia, i fiori sono energia, tutto ciò che ci circonda è energia. Un operatore Reiki non fa altro, diciamo, che trasformarsi in un'antennina, per parlare alla meccanica, figura, e incanalare l'energia dell'universo, e vibrando con delle onde più alte rispetto a quelle normali, passare questa energia benefica con le mani sul corpo della persona. Ma con questa energia che attraverso le mani o altri sistemi si trasmette ad altre persone, che cosa cura? Che cosa ci si cura? Perché ci si rivolge al Reiki per curarsi? Il Reiki lavora su tre aspetti, come la maggior parte delle medicine energetiche. Sul piano fisico, quindi un operatore Reiki che ha anche una buona conoscenza dell'anatomia umana / animale, se si tratta animali, toccando nel punto o nei punti in cui una persona ha dolore, può con questa energia benefica alleviare il dolore. Quindi se a me mi fa male un ginocchio e mi tocco nei punti in cui so che mi fa male il ginocchio, alleviare il dolore. Ci sono studi e ricerche fatte appunto su beneficio del Reiki nel trattamento del dolore cronico o acuto. Ricordatevi però, cioè, spiego a te e agli ascoltatori, che il Reiki non è un massaggio, nel senso che io non vado con la pressione delle mani a toccare e a massaggiare il punto. Vengono appoggiate le mani su dei punti esatti, su dei punti in cui io comincio a dare calore e a far sentire alla persona una specie di formicolio. Altra cosa che cura sono i disturbi, diciamo, più emozionali. Con il Reiki si riesce a fare un riequilibrio dei chakra, quindi una persona viene da noi perché magari è stanca, è stressata, è triste, c'ha l'ansia, qualsiasi cosa che la fa stare in uno stato emotivo, diciamo, non positivo. L'operatore riesce a capire quali sono i chakra, diciamo, che non funzionano benissimo, e riesce a riequilibrarli, quindi riportando, diciamo, lo stato dei chakra a un normale e corretto funzionamento. Stessa cosa vale anche per chi arriva con un malessere fisico, che anche se noi non siamo in grado di massaggiare, però come abbiamo detto e raccontato nella puntata dei chakra, i chakra si manifestano anche come disturbi fisici. Io posso avere mal di testa, posso avere mal di gola e magari non mi passa né con la pasticchina né con l'antibiotico né con qualsiasi altra cosa, e quindi una persona magari può indagare sul fatto che ci potrebbe essere altro, quindi un disagio magari emotivo, e uno va a toccare il chakra della gola e va a capire che questa persona ha mal di gola perché non riesce a esprimere quello che vuole dire per n motivi, è bloccato, è insicuro, eccetera eccetera, e quindi si va a cercare di alleviare e a tirare un po' fuori il coraggio e la forza di questa persona di tirare fuori quello che ha dentro. E poi si va a lavorare su tutti gli strati di energia un pochino più sottile, quindi a controllare che il campo energetico nostro sia ben protetto, che l'aura funzioni correttamente, che a livello spirituale, diciamo, siamo connessi a ciò che noi crediamo, al nostro io superiore, qualsiasi cosa noi vogliamo credere. Elisa, negli anni 80, quando agli aristocratici romani non conveniva più avere camerieri e servitù italiana, importarono i filippini e con i filippini arrivarono i famosi guaritori, quelli che imponevano le mani e sembrava che estraessero i mali più tremendi senza neanche un bisturi dal corpo delle persone. Ci sarà stato qualcuno serio, ci sarà stato qualcuno che faceva il trucchetto di prestidigitazione, come Alberto Sordi mette un po' in ridicolo nel film Sono un fenomeno paranormale, ma tutto questo per dire che il Reiki aiuta solo in caso di dolori e quindi di rimessa in sesto dell'apparato non fisico ma metafisico di una persona, oppure è in grado anche di andare a curare letteralmente quelle malattie che creano dei tumori, per esempio? Io su questa cosa sono molto molto prevenuta, nel senso che il Reiki può aiutare tanto un malato oncologico, un malato che ha un tumore, può aiutare i malati terminali a stare meglio o chi è ricoverato in ospedale. Ci sono cliniche del Reiki dove in altri paesi tu vai dopo un'operazione, dopo una grave malattia, e ogni giorno ti viene fatto un trattamento e ti aiuta a riprenderti fisicamente. Ma io non mi sento di dire che chi ha un tumore o chi ha altre malattie molto più gravi debba affidarsi unicamente al Reiki per poter guarire. Ciò che può fare è un sostegno, un aiuto, e magari fa anche guarire, magari. Però teniamo sempre presente che esiste una medicina tradizionale che in qualche modo noi dobbiamo sempre avvalorare e di quale ci dobbiamo avvalerci in malattie in cui non basta l'antibiotico per guarire, ecco. Ormai non crediamo più ai guaritori, non crediamo più alla Vanna Marchi, ai santoni, eccetera eccetera. Quindi chi si approccia a questo mondo dicendo io con la sola imposizione delle mani guarirò il tuo tumore, ecco, è bene che chi lo incontra giri subito dall'altra parte e scappi più veloce possibile. E tu, Elisa, che sei un'operatrice Reiki e che hai studiato il Reiki, che lo pratichi e continui a specializzarti e a sviluppare queste tue abilità o queste tue conoscenze, il Reiki come lo si impara? Ci sono diversi livelli. Primo livello, che è una cosa che piacerebbe veramente che tutti potessero prendere. Pensa che in Inghilterra il primo livello Reiki viene rimborsato da Sanità Nazionale. E serve più che altro per l'autoguarigione. Viene praticamente aperto, cioè tutti noi siamo in grado di fare e dare Reiki. Quello che viene fatto nel primo livello è dare al tuo corpo la consapevolezza di diventare questo canale. Quindi ti vengono insegnati delle posizioni per poterti autotrattare, e appunto devi fare un percorso di trattamento di 21 giorni. Passato questo, saresti in grado di trattare te e io mi limito a dire le persone più care, quindi che hanno le tue stesse vibrazioni, quindi i tuoi animali, i tuoi familiari, il tuo partner, i tuoi figli, le tue piante, quelli che hanno una vibrazione simile alla tua. Col secondo livello Reiki invece vengono insegnati dei simboli. Questi simboli servono per entrare più in connessione, più in profondità con l'altra persona. Quindi dal secondo livello in poi sarebbe buono riuscire a imparare a trattare anche persone che non fanno parte della sua familiarità. E poi c'è il percorso per diventare maestro, quindi colui che poi insegnerà agli altri il Reiki. Quindi c'è un terzo livello in cui viene insegnato l'ultimo simbolo e poi il livello di master in cui impari le pratiche per poter dare i livelli agli altri. Il percorso è lunghino e necessita anche di un costante apprendistato, nel senso che noi dobbiamo sempre avere la possibilità di fare Reiki agli altri, magari chi ha fatto Reiki con noi al primo livello, al secondo, e metterci in gioco per capire come cambia l'energia. L'energia in me è cambiata tantissimo, nel senso che dal primo al terzo livello quello che io sento quando tratto altre persone e altri esseri viventi è completamente diverso da quello che sentivo nel primo livello. Quindi Elisa, un po' come molte pratiche che vengono dall'Oriente, il Reiki è un'arte marziale dove con la continua pratica e il continuo approfondimento piano piano si cresce di livello o si cresce di cintura, come insegnano ai bambini alle scuole di judo o di karate. In realtà le cinture, quelle gialla, verde, marrone, azzurra, in realtà nella Cina o nell'Asia di Bruce Lee non esistono. Una curiosità, un'ultima curiosità: tempo fa un tizio che sosteneva di avere studiato il Reiki riteneva di non avere troppo bisogno di continuare a studiare e praticare, perché a lui bastava, per acquisire le sue competenze, di dormire nella stessa stanza insieme con un maestro Reiki. Ora, questa storia, questa forse leggenda, ce la confermi oppure un po' ce la smentisci? A dirti la verità, non ho mai dormito con il mio maestro Reiki in una stanza, quindi non ti posso dire se con la sola forza del pensiero lui potrebbe avermi insegnato cose che oggi non ho imparato. Quello che a me piace è sempre un approccio un po' scientifico alle cose, quindi secondo me quello che dobbiamo fare è sempre metterci in discussione, quindi andare avanti e cercare sempre cose nuove che ci appassionano. Ora a luglio io diventerò Master Reiki, quindi diciamo il mio percorso sarebbe finito in questo ambito, però mi piacerebbe tanto di più imparare a trattare i dolori, a trattare il malessere animale, i dolori animali, quindi a scoprire tanto di più. Dobbiamo rimanere curiosi, come diceva anche un po' Steve Jobs, dobbiamo rimanere affamati e un po' pazzi, no? Quindi secondo me ritenersi arrivati nella vita è un punto fallimentare, cioè noi non siamo mai arrivati, dobbiamo sempre andare avanti. Il nostro percorso non finisce oggi, ma oggi inizia un nuovo percorso, quindi è un po' limitante dire che basta dormire con un maestro Reiki per poter aver appreso tutto. E allora ringraziamo la nostra sensei Elisa che piano piano, di cintura in cintura, di dan in dan, sta arrivando alle più alte vette del Reiki. Grazie Elisa per queste tue spiegazioni, effettivamente, anche se non ci credo e sono tutte baggianate, mi hai dato delle risposte molto interessanti, per esempio il campo energetico del cuore, per esempio come riusciamo a trasmutare energie che ci sono ma non sono visibili, e in qualche modo come queste energie, se riorientate, sulla carta quadra alquanto sono in grado di rimettere in sesto chi questi campi energetici ce l'ha storti. Grazie Elisa. Grazie a te Giorgio per avermi ascoltato anche oggi e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, ai quali auguro di provare prima o poi nella vita un trattamento Reiki. Olé!